Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci all'appuntamento con l'Adico, Associazione Difesa Consumatori, l'unico di questa settimana, perché poi giovedì e venerdì sono giorni importanti, giorni del Triduo Pasquale, quindi salterà tutta la nostra programmazione ordinaria, ma ci siamo anche oggi col presidente Carlo Garofolini, ben trovato. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io e te siamo al telefono, ci sentiamo quasi sempre per telefono, parliamo di telefoni oggi, no? Sì, parliamo proprio di telefoni perché di qualche giorno fa, il dato che l'autorità per le telecomunicazioni ha diffuso, dove si evince come le persone, gli italiani in particolar modo, si rivolgono sempre di più verso gli operatori di telefonia mobile e tendono ad abbandonare la telefonia fissa. La telefonia fissa che comporta un canone, magari ufficiale o magari mascherato, insomma da altre parti, per l'utilizzo che si fa evidentemente e del telefono per telefonare appunto e anche per le connessioni a internet, evidentemente la tecnologia e le abitudini cambiano. Come hai detto, proprio la tecnologia, ma soprattutto le abitudini a cambiare, perché oggi le persone sempre più cercano il modo di essere contattate direttamente e vogliono ottimizzare i costi evitando di pagare noleggi o canoni di un tipo rispetto di un altro, l'IVA, e cercano formule che siano sempre più appropriate alle proprie abitudini e quindi che alla fine della fiera comunque permetta di risparmiare a quelli che sono dei costi fissi, ai quali oggi anche a nostro avviso hanno raggiunto delle cifre insomma abbastanza importanti e che in un bilancio di una famiglia incide moltissimo. E di conseguenza, ma basta osservare un po' gli spot pubblicitari, anche le aziende si adeguano, perché adesso fanno solamente un certo tipo di proposte, cioè un tanto tanti euro a settimana o al mese per avere tot minuti o tot comunicazione. Una volta non c'erano queste offerte. Guarda, allora innanzitutto Mingo, come hai detto, è così, ma è anche da fare una riflessione su come il settore della liberalizzazione forse sulle telecomunicazioni è l'unico che in Italia ha funzionato, tant'è che da Bersani ancora il famoso decreto di qualche anno fa che aveva eliminato la tariffa sulla ricarica, oggi le SIM stanno diventando uno strumento, un mezzo sia di lavoro ma anche del tempo libero, e le compagnie, come abbiamo notato, si stanno operando sempre di più per vincolare il cliente per qualche anno, dandoti un smartphone di un tipo rispetto di un altro e nello stesso tempo pagarlo con delle formule mensili che hanno anche l'addebito in conto rispetto a una prepagata che puoi comprare a tabacchino o ricaricata al bancomat, ma che alla fine della fiera tutto questo ha portato le compagnie telefoniche a proporre tutta una serie di prezzi in minuti, in scatti o in fisso o illimitato, che comunque permetta tra di loro a fare una concorrenza che noi diciamo anche abbastanza leale, che comunque ne fa beneficiare molto il consumatore quando decide un operatore rispetto all'altro. A proposito di operatori, insomma, conosciamo Telecom, TIM, Wind, Vodafone, La 3, ma poi ce ne sono anche tanti altri, i cosiddetti virtuali, no? Mi viene in mente le Poste, che di per sé non fanno telefonia, però le Poste hanno moltissimi clienti per la telefonia. Sì, come hai detto, queste sono le più note, ma ce ne sono altre di meno note che comunque poi il consumatore deve stare molto attento, perché rischia poi di dover pagare di più quando va in roaming, cioè quando un operatore non ha la rete coperta e trasferisce il segnale sotto un'altra rete. A noi ci viene come Adico presente sempre quelle che sono le situazioni più incredibili che ci capitano, e una su tutte è quando una persona ha questi smartphone collegati a internet che permette la navigazione illimitata o di un giga o due giga al mese, poi quando va all'estero si dimentica di disattivare il roaming va sotto un altro operatore di un paese internazionale che non è più l'Italia, e rientrano in Italia che con la prima fatturazione si trovano anche qualche migliaio di euro da pagare rispetto ai 20-30 euro mensili pattuiti da contratto. E allora chi va all'estero sa che deve stare attento a disattivare certe opzioni, per chi invece è in Italia cosa possiamo dire, quali consigli possiamo dare? Allora noi come Adico molte volte il consumatore si rivolge a noi chiedendo quella che può essere una tariffa o una compagnia più conveniente rispetto all'altra, però qua è anche vero che è difficile poter dire chi è più conveniente rispetto all'altro, perché oggi secondo noi è più conveniente quella tariffa che si rivolge o va più incontro a quelle che sono le esigenze e le abitudini del consumatore. Al di là di questo bisogna stare attento alle offerte, che molte volte sono dei specchietti della lodole che magari hanno una promozione di 6 mesi, massimo un anno, con il rischio poi di dimenticarsi a rinnovarla e pagare per tutto quello che si è risparmiato. Poi soprattutto il consiglio che noi diamo, al di là dell'operatore scelto, ricordarsi di sfruttare la portabilità, cioè cambiare da una compagnia all'altra mantenendo il numero, può permettere di beneficiare di notevoli sconti e riduzioni, soprattutto al consumatore quando decide di migrare. Quando si sottoscrive un contratto, di avere molta attenzione a leggere le clausole, perché quando c'è un apparecchio, cedere prima della scadenza di un contratto con un apparecchio in uso o incomodato d'uso, si rischia di pagare delle penali abbastanza salate che possono arrivare fino alla copertura dell'intero costo del cellulare. La regola è sempre informarsi, verificare bene i costi, i contratti, i dettagli, insomma chiedere, anche se magari per un utente di mezza età o di terza età o di quarta addirittura è difficile trovare delle offerte che ad esempio ti facciano pagare solamente quello che consumi. Ormai mi pare che siano sparite queste, no? Ormai, guarda amico, trovare un'offerta che sia veramente così facile, semplice, trasparente, veramente difficile. Le compagnie propongono delle tariffe così diversificate e così poi diverse rispetto a una compagnia e l'altra in termini di costi, di tempo, di secondi, di scatto alla risposta, eccetera, che veramente si fa fatica a soppesare quale sia migliore rispetto all'altra. Il nostro avviso è soprattutto per chi è anziano di evitare di abbandonare quelle che sono le formule con l'addebito in conto, perché molte volte quando si sottoscrivono questo tipo di contratti bisogna tener conto della tassa governativa, e cercare di rivolgersi a quelle che sono le formule tradizionali, come una semplice ricarica che uno può comprarsi il tabacchino, farsi in posta o al bancomat. Ultimo aspetto che tocchiamo è quello delle connessioni, perché sì, il telefono è nato per parlarsi, come stiamo facendo io e te, ma adesso le linee telefoniche, quelle fisse e soprattutto quelle senza fili, si utilizzano per le connessioni internet, per gli scambi di dati. Qui l'Italia deve ancora fare molta strada, perché in certi paesi, anche dalle nostre parti, insomma, le connessioni sono delle lumache. Ah, guarda, ormai, Mirko, dove esistono in gran parte dei paesi europei le fibre ottiche, in Italia abbiamo ancora il problema di potersi connettere tramite il wifi o il semplice wifi. Oggi, come dici te, le linee non sono dimensionate per poter sostenere tutto il traffico dati che gli italiani normalmente o comunemente, vuoi per gioco o per lavoro, utilizzano. Oggi è anche vero che bisogna ricordare che l'Italia è il primo paese al mondo per il numero dei cellulari per ogni persona e per il volume di traffico e di lavoro e di fatturato che comunque spendono nei confronti di queste società che realizzano questi smartphone. Sappiamo che ogni 6 mesi, ogni anno vengono fuori dei apparecchi nuovi, ma sappiamo che gli italiani ormai comunemente ne hanno anche più di uno, quindi un settore, questo delle telecomunicazioni, che veramente è sempre in fase di evoluzione, che difficilmente permette a ciascuno di noi poter stare sempre al passo con i tempi. Io sono controcorrente perché il mio cellulare ha più o meno 5 anni ed era costato 60 euro e fa solo telefonate, quindi mi considero un po' arretrato ma fedele a questo schema. Allora Carlo, noi ci fermiamo qui, non ci sentiremo appunto né giovedì né venerdì, quindi buona Pasqua e appuntamento col mese di aprile. Certo, io auguro buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori e ci risentiamo allora la prossima settimana. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.